Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. A tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità, le notizie, le idee, gli stili di vita attraverso una lente molto speciale. Cerchiamo di rappresentare anche criticamente il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 845, parleremo di lupi, parleremo di orsi, parleremo di un'azione dell'ALF, parleremo di attivisti antispecisti che in Francia hanno messo a segno un'azione contro un mattatoio e parleremo di due uova e una webcam. I Troglodita Tribe saranno ancora nostri ospiti con un intervento sul primo santuario per elefanti in Europa. Non mancherà una ricetta a tema curata da Gabriele Palloni e buona musica, stavolta a cura di Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Francia, un gruppo anarchico che ha usato l'acronimo ALF ha rivendicato come azione antispecista il violento incendio divampato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel parcheggio del macello Paris Terroir, precedentemente noto come Guy Harang, a Houdin, nella periferia di Parigi, che ha distrutto una flotta di 17 camion e rimorchi frigorifero. Si dirà che quell'incendio non ha fermato gli abbattimenti, ma ha sicuramente portato un enorme danno logistico al macello. E sebbene noleggiare camion non sia certo complicato, trovarne 17 in tempi record non sarà stata una passeggiata. Lo smontaggio dei corpi animali avrà quindi, secondo noi, subito comunque dei rallentamenti e dei danni. Il punto è che quei camion erano preposti al trasporto di corpi di maiali appena smontati e fatti a pezzi. Ci rendiamo conto che per molte persone questo sembrerà un paragone spericolato, ma nel pensiero antispecista e vegan ricorre questo parallelo. Come sarebbe stata valutata un'azione antinazista che avesse creato un mega incendio e ridotto in lamiere inutilizzabili 17 treni di quelli che Adolf Eichmann, alto ufficiale delle SS, organizzatore logistico della soluzione finale, usava per trasportare verso i campi di sterminio milioni di Rom, Sinti, prigionieri di guerra sovietici, disabili, polacchi, testimoni di Geova, omosessuali, oppositori politici, psichiatrici, asociali, pacifisti, disertori e naturalmente ebrei. Qui entrano in gioco vari elementi, tra i quali l'idea di un boicottaggio, di un'azione dimostrativa, di un danno economico e di una comunicazione efficace. Difficile dire quali pratiche siano le migliori. Tutto sta nello scegliere quelle che ci somigliano di più e possibilmente quelle che possono trovare un maggiore seguito, consenso, che possono aggregare e creare sintonia intorno a un'idea. Questa redazione in generale non apprezza l'idea di distruggere, non puoi mai essere certo che distruggendo, incendiando e bombardando non ci vada di mezzo qualcuno. La distruzione coinvolge indiscriminatamente oggetti, insetti, terreno, forme di vita vegetale, animale di varie dimensioni, anche non visibili a occhio nudo, e distrugge opere umane, lavoro operaio, creazioni dell'ingegno. Preferiamo sempre azioni non violente di altro genere, come ad esempio fermare un mattatoio, come fanno eroicamente e coraggiosamente a volto scoperto tanti gruppi antispecisti, specialmente francesi. Sebbene dunque l'incendio del camion non sia proprio la forma di lotta preferita, tuttavia non possiamo avere dubbi su chi rappresenti l'oppresso e chi l'oppressore in questa storia, in questo scenario. Gli oppressi, le vittime sono i milioni, miliardi di animali senzienti, sensibili e desiderosi di una vita libera, che ogni giorno, ogni mese, ogni anno vengono fatti nascere e morire per un'idea specista di dominio, di superiorità, di utilità. E qualcosa va fatto per fermare questa ingiustizia. Nel 2019 il macello in questione, quello che ha subito il danno in Francia, era stato acquisito da Cooperl, la cooperativa agricola e agroalimentare del Grand West, e poco prima dell'acquisizione era finito sotto i riflettori per maltrattamenti nei confronti dei suini. I fatti, rivelati dal video dell'associazione animalista L214, aveva portato 5 uomini, l'ex direttore del macello, 3 ex dipendenti e un funzionario della direzione dipartimentale per la protezione delle popolazioni, davanti al tribunale di polizia nel marzo 2019, e poi condannati a multe comprese tra i 600 e i 3.300 euro, quindi i maltrattamenti erano stati accertati. ALF, che ha messo a segno questa azione, ha dichiarato: prendere di mira la logistica che sta dietro al commercio di animali significa colpire il funzionamento interno dello specismo e del capitalismo. I maiali, come tutti gli altri animali, non vogliono partecipare a questa società violenta. Fuoco ai macelli, fine di tutte le oppressioni. E si sono firmati appunto con l'acronimo ALF, ma che in questo caso, invece di significare Animal Liberation Front, significherebbe Anarchist Lance Flamme, anarchici lancia fiamme. Ciascuno si farà una sua idea di quanto vi abbiamo raccontato. Parliamo di lupi, andiamo nel bolognese. È stata rinnovata fino a fine anno l'ordinanza antilupo del comune di Bologna. Dopo gli avvistamenti nel parco di Villa Ghigi, il sindaco ha firmato una nuova ordinanza con efficacia immediata e validità fino al 31 dicembre 2026, eventualmente prorogabile con ulteriori atti. Questo provvedimento, in particolare, vieta alla popolazione residente e ai frequentatori dell'area collinare qualsiasi comportamento che possa attirare esemplari di lupi nel contesto urbano e, più in generale, che possa attirare la fauna selvatica. Soprattutto è vietata qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione per i lupi e qualsiasi abbandono di rifiuti organici al di fuori degli appositi contenitori o pattumiere per la raccolta dei rifiuti. Si ordina inoltre ai cittadini di utilizzare sempre il guinzaglio nella conduzione dei cani in tutte le aree aperte e comunque di non lasciare cani incustoditi o liberi di vagare in aree che potrebbero essere accessibili al lupo. Non si potrà inoltre dare da mangiare agli animali domestici in luoghi aperti e non protetti, nonché all'esterno delle abitazioni. Questi divieti a noi sembrano sensati. Più che altro ci sembrano una buona prevenzione dei conflitti, evitando quindi di creare quel casus belli, quell'incontro indesiderato uomo-lupo che poi si tira dietro tante accuse, denunce, paginate di panico, timore per bambini e animali domestici, rafforzando pregiudizi negativi verso la specie lupo. Quindi ha fatto bene il sindaco e speriamo che molte altre città adottino ordinanze simili in tutta Italia. Too late, the sun don't love the day, and I'm not here. Parliamo ancora di lupi. I lupi europei sono tornati a crescere numericamente dopo decenni di declino e sappiamo che la loro protezione si è indebolita in Europa per il peso che hanno avuto determinate categorie professionali, pastori, allevatori, cacciatori. Ma nonostante la crescita numerica, questi animali restano geneticamente fragili e anche a rischio nel lungo periodo. È quello che emerge da due studi indipendenti pubblicati su BioRxiv, basati su analisi genomiche su larga scala, che mettono in discussione l'idea di una piena ripresa della specie in Europa. Il primo studio, coordinato da Evelyn Todd, ha analizzato oltre 1000 genomi di lupi europei, evidenziando una struttura complessa fatta di molteplici linee evolutive distinte, e non di una singola popolazione in recupero. Le popolazioni del nord mostrano quindi contributi genetici asiatici, mentre quelle meridionali conservano lignaggi antichi risalenti all'Olocene. Tuttavia, molte di queste popolazioni, in particolare quelle di Italia, Iberia e Scandinavia, presentano elevati livelli di consanguineità. Come sappiamo, la consanguineità non è mai favorevole alla robustezza e stabilità di una specie. Segnali diffusi di erosione genomica sono stati rilevati in tutta Europa. La perdita di diversità genetica e la ridotta connettività tra popolazioni compromettono la capacità adattiva della specie. Secondo gli autori, quindi, molte popolazioni non raggiungono la dimensione minima necessaria per la sopravvivenza a lungo termine. Questi risultati convergenti emergono dal secondo studio, quello guidato da Sara Ravagni e Cristiano Vernesi, che hanno analizzato oltre 200 genomi provenienti da 5 principali popolazioni europee. Anche in questo caso, i ricercatori hanno evidenziato che i lupi europei costituiscono un mosaico di linee evolutive isolate con divergenze risalenti al tardo Pleistocene. Oltre a essere eticamente inaccettabile, dunque, l'allentamento della protezione del lupo, questa sembra anche non avere scientificamente un adeguato fondamento. Se una specie è fragile, è geneticamente fragile e a rischio nel lungo periodo, la sua protezione deve continuare a essere massima. Questo lo dice la logica scientifica. Il primo santuario in Europa per elefanti liberati. La notizia circola da qualche mese. In Portogallo, nella regione di Alentejo, sta per nascere il primo grande santuario europeo per elefanti. Il progetto è promosso dalla ONG Pangea Trust, attiva dal 2017 nella protezione degli animali esotici. Secondo le informazioni disponibili, il santuario potrà contare su oltre 400 ettari di territorio e le strutture sono ormai quasi completate. Potrà accogliere tra i 20 e i 30 elefanti salvati da zoo e circhi in tutta Europa. Il primo arrivo annunciato è quello di Kariba, un'elefantessa di 40 anni catturata nello Zimbabwe dai bracconieri e poi trasferita in diversi zoo tra Germania, Paesi Bassi e Belgio. Nell'ampia zona del santuario, ricca di biodiversità, gli elefanti rifugiati potranno muoversi liberamente e interagire tra loro senza più essere perseguitati, cacciati, catturati. L'ingresso non sarà pubblico, ma riservato a veterinari, ricercatori, volontari e studenti. Non è quindi previsto alcun tipo di spettacolo o ritorno economico con attività commerciali che ruotino intorno agli elefanti, proprio come avviene in tutti i veri rifugi per animali liberati. È certamente un'ottima notizia, ma non possiamo certo fingere che si tratti di una soluzione, di una vittoria. I santuari, tutti i rifugi restano spazi controllati, delimitati, gestiti da noi umani. Sono un timido tentativo di riparare un danno immane, un'ingiustizia difficilmente quantificabile e descrivibile, perché la vera buona notizia non dovrebbe essere l'apertura di un nuovo santuario, ma la chiusura definitiva di tutti gli zoo, dei circhi, degli acquari, di tutti quei luoghi, oggi chiamati bioparchi, parchi faunistici, safari park, centri di conservazione, dove gli animali continuano a essere trasformati in mero intrattenimento. E allora il punto è capire che abbiamo bisogno di un santuario come quello che aprirà in Portogallo, perché gli elefanti sfruttati, catturati, venduti, esibiti, rinchiusi, rappresentano ancora la normalità, il nostro modo di considerarli. Mentre il rifugio è solo un'eccezione e il rischio oggi è quello di trasformare questa notizia in una storia rassicurante, una storia in cui il problema sembra risolto. Prima gli elefanti soffrivano, ora arriva il santuario e tutto si sistema. No, non è così, perché finché continueranno a esistere zoo, circhi o altre forme di sfruttamento animale, continueranno a esistere anche animali da salvare e quindi continuerà a esserci bisogno di santuari. Questo nuovo spazio migliorerà concretamente la vita di alcuni individui, a partire proprio da Kariba, ma anche il segno di un sistema che non cambia mai alla radice, il segno che i piccoli passi possono solo riparare superficialmente il danno che sta alla base, che richiede invece un cambiamento radicale della nostra mentalità, quella che pone sempre solo l'umano al centro del mondo, quella che non riesce a considerare gli altri animali come individui e popolazioni di individui. Siamo immersi in un cortocircuito esistenziale in cui chi non è umano continua a essere considerato risorsa disponibile e solo in un secondo momento, quando non serve più o quando qualcuno riesce a tirarlo fuori dalla gabbia, dal ruolo assegnato, solo allora si pensa a un luogo dove sia possibile ricollocarlo. E allora il modo più onesto di raccontare questa notizia è un altro, non come un punto di arrivo, ma come il tentativo di ridurre il danno. E la domanda che resta aperta non riguarda solo il Portogallo, non riguarda solo i tanti rifugi che stanno facendo un lavoro straordinario perché tengono viva la possibilità di altre modalità di convivenza con chi non è umano. La domanda riguarda tutti noi. Vogliamo continuare a costruire luoghi migliori dove tenere gli animali oppure vogliamo smettere di considerarli qualcosa da tenere, da gestire, da controllare, da salvare? Perché la differenza alla fine è tutta qui. Noi cosa sappiamo di noi? Ci illumina, cosa ci spinge, cosa ci domina, non è reale, non è reale, non è reale, non è reale. Noi, cosa sappiamo di noi, cosa ci illumina, cosa ci spinge, cosa ci domina, non è reale. Ci illumina. ci spinge, cosa ci domina, non è reale. Una Pasquetta speciale in cima al grattacielo Pirellone di Milano, dove sono nati i primi pulli del 2026 di Joe e Giulia, la coppia di falchi pellegrini che da anni nidifica sulla torre simbolo della regione Lombardia. Un evento atteso e seguito da migliaia di cittadini affezionati alla storia dei due rapaci urbani che dal 2014 tornano puntualmente a oltre 125 metri di altezza per dare vita a una nuova covata. Il nome della coppia è un omaggio all'architetto Joe Ponti, progettista del Pirellone, e sua moglie Giulia Vimercati. Dopo il primo avvistamento, nell'aprile 2014, questi magnifici volatili dispongono di un nido artificiale sulla sommità dell'edificio, accompagnato dall'installazione di webcam che consentono di seguire in diretta Facebook tutte le fasi della nidificazione. Dal 2016, anno della prima covata osservata, Joe e Giulia sono diventati una presenza familiare per i cittadini. Come ogni anno, la coppia ha iniziato a frequentare il nido già a gennaio, per poi avviare il periodo di corteggiamento e la successiva cova tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Anche quest'anno, dopo la deposizione, si sono schiuse le uova. Per seguire minuto per minuto il grande lavoro di questi due tenaci genitori che proteggono, sfamano e fanno crescere i loro gioielli, potete cercare su Facebook una community che si chiama Joe and Giulia, con la E commerciale, Falchi Pellegrini a Milano Community, che conta quasi 26.000 membri da più paesi del mondo e che è nato per condividere foto, video, scambiare opinioni e informazioni su quanto accade nel sito di nidificazione presente all'ultimo piano del grattacielo Pirelli. Don't treat me like a puppet on a string. Il Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone oggi una ricetta milanese dedicata ai giovani falchetti in crescita sulla torre del Pirellone a Milano. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dedichiamo a Joe e Giulia e ai loro due piccoli una ricetta ottocentesca nata al Caffè Virtuosi di Milano ad opera di Domenico Barbaia, la ricetta della Barbaiada. Gli ingredienti per 4 persone sono 70 g di cacao amaro in polvere, 100 g di zucchero, 300 g di acqua, 200 g di latte di soia o altra bevanda vegetale, 200 g di caffè fatto con la moka e per guarnire 200 g di panna da montare vegetale. Preparate il caffè con la moka e lasciatelo intiepidire. A parte unite lo zucchero al cacao e stemperate il tutto con l'acqua, lavorando con la frusta affinché non si formino grumi. Versate in un pentolino e fate bollire a fuoco lento. Quindi togliete dal fuoco e unite il caffè e il latte vegetale. Mettete nuovamente sul fuoco per 15 minuti mescolando con la frusta. Nel frattempo montate la panna vegetale. Una volta pronta, servite la barbaiada calda nelle tazze, decorando con la panna montata e, se lo gradite, dei pezzetti di cioccolato. Ricordate che la barbaiada può essere anche servita fredda. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masa, la Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 846 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.